su una barca direzione oblio. Nell'occulto mi ci proietto, faccio proiettile effetto. Ne becco 2, 3, 4, 5, ritorno al mio elmetto. Bam, mi autosparo, mi elimino. Questo non è mica Forrest Gump, io non corro. Cazzo, sono livido, ho bisogno di una squillo. Datemi una troia squillo al giorno e mi levo di torno. Datemi una troia squillo al giorno e mi levo di torno. Vorrei soldi anche per fare altre robe. Qua se lo dico da me cadono e si accendono le sirene. Perché mi ascolta il vicino e pure l'altro vicino del vicino del vicino. Questo è il gossip preferito del mio circondario. Olè, sono Romario. Prendo, entra, attraversa il palo, poi entra, olè. Faccio queste rime oscene, discorso pessimo, in un brutto posto. Rimango qui come un linguaggio morso di me stesso. Un morso nel vento, non so come spiegartelo. Lo sento addosso, un lamento. Mi chiama di te, mi dice lei morde come una iena. Fa la cena sulla mia testa. Poi se non si accontenta mi prende il gomito e poi mi manda alla fossa. Rimango qui senza rimorso sopra questo beach. Faccio quello che voglio col microfono. Sono atomico, sono daltonicamente scritto sul verde. Ma tu devi fermarti sul rosso quando mi vedi passare e girarti e almeno sganciare un deca o un 20. Sarà che questi dementi non ci possono arrivare. La mia musica magistrale, la mia lirica vuole insegnarti una sola cosa. Vivi libero e osa anche quello che non puoi fare. Ricorda, sono nato dal nulla come te. Ho imparato tutto a mie spese. Ho imparato tutto a mie spese. Liricamente estese le mie liriche fanno di te un circo carne. Imito nessuno. Sono il frastuono di me stesso, un tuono nel deserto che fa pioggia e la gente esce fuori dalla baracca. Dio, grazie per la nostra nuova pioggia. Ecco perché quando la mia gente balla freestyle sembra quasi che è freestyle. E allora dimmi chi sei per fermare queste mie rime se io sono l'orei.